Questa promozione chiama all'800 191. Benvenuto nel servizio clienti Quixa. Buongiorno, signor Ghislini. Pronto, Carlo? Sì. Scusa, ho appena... Salve, ho appena tamponato una macchina. Sta bene? Sì, tutto a posto, ma non so cosa fare. Adesso lo risolviamo. Allora, prenda il modulo blu. Sì, aspetti. Del cruscotto. Quale? Quello... Quanti cruscotti ha, scusi, lei? Chiama anche tu Quixa, l'unica assicurazione auto online che ti offre un consulente personale dedicato e ti fa risparmiare. Fai un preventivo. 800-558-558 o quixa.it. Quixa. Diretta. Personale. AXA. Le temperature di oggi: Milano più malmostosa, Bologna meno nervosa, New Orleans più triste, L'Aquila più triste ancora, Pechino più blindata, Napoli più cementata, Padova meno divisa. Il mondo che cambia, raccontato dalle storie sotterranee delle città, sul numero di Diario di maggio, intitolato Città. Diario è in edicola. Lo scorso anno, oltre 150.000 contribuenti hanno scelto di dare il proprio sostegno alla ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Nella dichiarazione dei redditi, devolvi il 5 per 1000 dell'IRPEF a favore dell'AIL. Con un semplice gesto che non ti costa nulla, si possono raggiungere importantissimi traguardi. Riporta nell'apposito spazio il codice fiscale AIL 80 10 239 05 82. Info su www.ail.it. Le 9 e un minuto. GR 24, il sole 24 ore. Marchionne rientra in Italia dopo l'accordo con Chrysler. Adesso non possiamo sbagliare, dice. Primo maggio, la manifestazione dei sindacati all'Aquila. Questa sera il tradizionale concerto di Piazza San Giovanni. Febbre suina, il sottosegretario alla salute Fazio. A casa 7 giorni per chi torna dal Messico. Notte in allerta in Emilia per l'arrivo della piena del Po, ma al momento tutto tranquillo. Buongiorno da Marta Cagnola e dalla redazione. Di ritorno dagli Stati Uniti Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat e autore dell'accordo con la Chrysler. Adesso non possiamo sbagliare, ha detto Marchionne. Siamo sotto la lente del mondo intero. Tutti ci guardano e la responsabilità è enorme. Per riuscire dobbiamo restare umili e non farci illusioni, perché il lavoro non sarà facile. Andrea Malan. Adesso viene il bello. Dopo un anno di trattative, 3 mesi e mezzo dalla firma dell'intesa e 1 mese di negoziati frenetici con tutte le parti in causa, Fiat ha conquistato la Chrysler e, come ciliegina sulla torta, ha incassato per la seconda volta in 1 mese le lodi del presidente americano Barack Obama. Salva sorprese, dunque, che in un'amministrazione controllata, pilotata dal governo, sono improbabili, tra 1 mese o poco più Sergio Marchionne potrà mettersi a gestire anche l'azienda americana. Gli impianti della Chrysler resteranno fermi per tutta la durata della procedura in tribunale. Questa decisione permetterà di ridurre le scorte ancora elevate, ma evidenzia i rischi ancora presenti sulla strada del successo dell'operazione. Nel frattempo Marchionne e i suoi non staranno con le mani in mano. C'è 1 mese di tempo per guardare al dossier Opel e tentare di creare, nonostante le opposizioni politiche e sindacali in Germania, un colosso da oltre 5 milioni di auto l'anno. Ma c'è anche da gestire un gruppo, la Fiat, che ha sì retto alla crisi dell'auto meglio di molte concorrenti, ma ha ancora oltre 6 miliardi di debiti e 5 stabilimenti sottoutilizzati in Italia. Abbiamo la panchina lunga, ha detto John Elkann, e qualcuno forse si sta già scaldando a bordo campo. Parliamo del 1 maggio. Arrivano notizie di scontri tra manifestanti e polizia in Germania e Turchia. A Berlino, al termine di una festa di strada, i dimostranti hanno lanciato bottiglie e pietre contro la polizia, 29 agenti feriti, 12 persone fermate. Ad Amburgo gli agenti feriti in scontri con i manifestanti sono 3. Primi scontri poco dopo l'alba a Istanbul. La polizia ha disperso e caricato un primo gruppo di manifestanti che stavano cercando di dirigersi verso piazza Taksim. I sindacati infatti chiedono invano di manifestare nella piazza in cui nel 1977 persero la vita 36 persone. Tutto lascia purtroppo presagire una giornata di scontri e semiguerriglia urbana, come ormai avviene regolarmente da almeno 3 anni. In Italia, 1 maggio, tra riflessione e musica, questa mattina la manifestazione dei sindacati all'Aquila, nel pomeriggio e poi alla sera il tradizionale concerto a Roma. Vasco Rossi sarà il protagonista della manifestazione di Piazza San Giovanni, suonerà per 50 minuti, ma nello stesso tempo il testimonial della campagna della raccolta di fondi destinati a borse di studio per gli orfani dei morti sul lavoro. Sentiamolo al TG1. È un momento che per me sento la necessità di restituire un po' di quello che ho ricevuto, soprattutto in questo momento di crisi economica che investe tutto e soprattutto quindi nei confronti dei lavoratori che sono quelli che rischiano di più, perché chi ha molto rischia di perdere qualcosa e quindi è fastidioso, capisco, ma chi ha poco che rischia di perdere tutto è una tragedia. E Radio 24 dedicherà ampio spazio nei giornali radio alle iniziative per il 1° maggio, ma anche in due speciali, uno subito dopo questo GR24, l'altro nel pomeriggio alle 17. Una notizia giunta proprio in questi istanti dalle agenzie: l'autore dell'attacco compiuto ieri contro il corteo della famiglia reale di Olanda è morto, lo annunciano i media olandesi. L'uomo, 38 anni, aveva lanciato l'auto contro la folla, investendo e uccidendo 5 persone e ferendone 13, 8 delle quali in gravi condizioni. Sulla febbre suina, ora denominata AH1N1, ieri l'Unione dei Ministri della Salute europei si sono riuniti, mentre il Messico chiede all'Unione europea di evitare misure restrittive. Dall'Italia un invito esplicito: il sottosegretario alla salute Ferruccio Fazio invita i cittadini che rientrano dal Messico a rimanere a casa per 7 giorni a partire dalla data di rientro. Fazio ha anche annunciato l'avvio tra oggi e domani della registrazione dei dati dei passeggeri in arrivo. Ai turisti si consiglia il rientro a casa anticipato, come conferma l'ambasciatore italiano a Città del Messico, Felice Scauso, intervistato da Raffaella Calandra. Abbiamo numerosissime telefonate di persone che sono in Messico e noi consigliamo di fare ritorno in Italia, perché qui è la situazione è di un'epidemia. Ambasciatore, quanti italiani in questo momento ci sono in Messico? Di residenti ce ne sono 14.000, turisti forse un paio di migliaia, e di cui però molti sono già in rientro. A voi il governo messicano ha mandato delle comunicazioni su come comportarsi? Quello che sta facendo il governo messicano è in pieno coordinamento con l'OMS. Qualche stato, come la capitale, è andato un po' al di là, per esempio ha decretato la chiusura dei ristoranti, possono solo servire cibo da portare via, chiusura delle scuole, riduzione dei servizi statali, distribuzione delle mascherine, sono chiusi cinema, teatri. Colpisce questa grande disparità tra le varie cifre che circolano. Lei che idea si è fatto? C'è una certa confusione, è stato spiegato dal ministro, dei 159 decessi cosiddetti anomali sono ancora in molti casi da verificare. E negli Stati Uniti una persona dello staff di Barack Obama potrebbe aver contratto la H1N1. Si tratterebbe di un membro della delegazione che accompagnò il presidente nella missione in Messico del 16 aprile. Anche un dipendente della Banca Mondiale a Washington ha contratto il virus, si è ammalato in Messico ed è in convalescenza. È stata una notte in allerta ma tranquilla quella appena trascorsa per le zone interessate dalla piena del Po, che ora si è spostata in Emilia-Romagna, dove da ieri è stato di allarme per Reggio Emilia e di preallarme per Parma, Modena e Ferrara. Non ci sono stati particolari interventi per protezione civile e vigili del fuoco, intanto proseguono gli accertamenti per individuare le responsabilità del crollo del ponte sulla via Emilia che collega Piacenza a Lodi. Ora diamo la linea al nostro speciale dedicato al 1° maggio, al nostro direttore Gianfranco Fabi. Il giornale radio invece torna alle 10. Prego signora, ecco il suo mezzo cappuccino. Adesso le do anche la sua mezza brioche. Nel tuo bar, non fare le cose a metà. Contatta SCF, il consorzio che tutela i diritti di artisti e discografici, per la musica diffusa nel tuo locale. La buona musica aiuta il tuo business. Sostienila con SCF. Per saperne di più, scfitalia.it. Pronto? Signora, è in onda alla radio. Oh mamma! Mi sa dire la taglia dell'elettricità di casa sua? La taglia dell'elettricità? Sì. Andate a fare questi scherzi da un'altra parte, maleducati! Con Energia Tutto Compreso di Enel Energia per il mercato libero puoi davvero scegliere la tua taglia. Se consumi fino a 100 kWh al mese, ad esempio, scegli la Small e se non la superi spendi 12 euro al mese, tutto compreso tranne le imposte. Il prezzo è valido per 2 anni. Chiama l'800-900-860. Enel, l'energia che ti ascolta. Design elegante e modernissimo, allestimento full optional, massime prestazioni in tempi record, da 0 a 100 gradi in pochi minuti. La fuoriserie degli assi da stiro si chiama Stiromania, l'idea a Foppa Pedretti che non fa una grinza. Ora compro e vendo online, chi l'avrebbe mai detto? Impresa semplice di Telecom Italia ti offre soluzione negozio. Telefonate e internet da 39,99 euro al mese per i primi 4 mesi. E in più non paghi il canone della linea fissa tradizionale. Impresa semplice di Telecom Italia. Il braccio destro che fa per te. Per copertura, costi di attivazione, condizioni dell'offerta e scadenza promozione, chiama l'803-191. Ecco i mouse sulla linea di partenza, semafori accesi, tutto pronto, partiti! È finalmente online motori24.com, il meglio dell'informazione su auto e moto con l'autorevolezza del Sole 24 Ore. E con Motori 24 vinci corsi di guida sicura in collaborazione con Audi Prima Scelta Plus. Scopri come su www.motori24.com. Gli speciali di GR24. Lavoro e sindacato nell'era della grande crisi. Buongiorno da Gianfranco Fabi, sono le 9, 10 minuti, 50 secondi, primo maggio 2009, un primo maggio che quest'anno si svolge un po' al di là della ritualità con molti fatti nuovi, cominciando dal grande fatto dell'accordo Fiat-Chrysler, un accordo che, come commenta Mario De Ario sulla stampa, è la rivincita del lavoro italiano. La parola lavoro torna in questo commento, il lavoro italiano è al primo posto in questa grande svolta ed è un primo maggio che si svolge anche nell'ottica della grande crisi economica, una crisi che sta colpendo pesantemente anche l'occupazione con le prospettive nei prossimi mesi che sono negative. Un primo maggio che in Italia si svolge anche ricordando e nell'atto di solidarietà verso i terremotati. I sindacati questa mattina, con una manifestazione che vuole essere molto sobria ma molto partecipata, sono all'Aquila per manifestare appunto la loro vicinanza verso i superstiti e i terremotati, appunto, del terremoto in Abruzzo. Quindi questi elementi fanno sì che questo primo maggio possa essere un momento di partecipazione, di riflessione, di preoccupazione anche sul fronte dell'economia, ma anche in fondo di orgoglio per quello che ha fatto e sta facendo la Fiat e quindi il lavoro italiano che sta appunto portando anche nel mondo la sua capacità, la sua prospettiva, la sua speranza di voler costruire una realtà più aperta e anche più giusta. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti che vi presento, non senza però vi prima ricordato che potete comunque chiamare l'800 24 00 24 o mandare messaggi al 349 238 6666. I nostri ospiti sono Carlo Della Ringa. Buongiorno professor Della Ringa. Buongiorno a voi tutti. Professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, Daniele Marini, buongiorno Marini. Buongiorno a voi. Sociologia del lavoro, docente di sociologia del lavoro, direttore della Fondazione Nord-Est, anche Marini è collaboratore del Sole 24 Ore, e Francesco Del Zio, buongiorno Del Zio. Buongiorno. È autore del libro Generazione Tuareg, Giovani flessibili e felici, un libro dedicato ai giovani e al lavoro. Ma io vorrei cominciare questa trasmissione parlando dell'accordo Fiat-Chrysler. Adesso negli Stati Uniti è notte piena, ma ieri sera abbiamo sentito il nostro corrispondente Mario Platero e ho chiesto a Platero come è cambiato il sindacato, come è cambiato il sindacato americano, che ha avuto un ruolo molto importante, decisivo in questa vicenda Fiat-Chrysler. Ricordo, il sindacato ha deciso di prendere gran parte della maggioranza del capitale della Chrysler. Allora, come è cambiato il sindacato americano? Mario Platero. Ma guarda, se devo riassumerla con uno slogan, è che questo sindacato americano si è trasformato in un sindacato capitalista, diciamolo, perché alla fine di tutto questo il sindacato emerge con un pacchetto azionario del 50% nella proprietà della General Motors e forse del 55% nella proprietà della Chrysler. Quindi è un sindacato che con una certa visione si è reso conto che la situazione non era più sostenibile, una situazione che era andata a crearsi negli anni 70, che prevedeva una serie di trasferimenti sociali, di oneri per l'azienda, che poi ha portato l'azienda di Detroit a essere in ginocchio. Dunque il sindacato ha capito, ha fatto delle concessioni ed ha accettato in cambio di quello che doveva essere pagato dalle aziende aziende e in parte dallo Stato di diventare azionista. Ha accettato azioni in cambio di trasferimenti. Ecco, quando noi parliamo di sindacato, nel caso della Chrysler, nel caso della General Motors, parliamo dei sindacati di queste aziende, quindi nello specifico dei lavoratori di queste aziende. Non è il sindacato, potremmo dire, all'italiana, la CGL o la CISL. È il sindacato che rappresenta questi lavoratori. Sì, è il sindacato della UAW, la United Automobile Workers, appunto l'unione dei lavoratori dell'auto. Però direi che c'è stato un processo di aggregazione in America, per cui tutti fanno parte poi di una grande confederazione, che è quella della AFL-CIO, che è la grande confederazione sindacale americana, dove però le varie organizzazioni sindacali di categoria hanno molta autonomia. Alcune addirittura, direi con un certo successo, si sono staccate, per esempio quella che si è venuta a formare di Andy Stern, che è il capo del sindacalista di coloro che lavorano nel settore servizi, si è distaccato, ha assunto una linea autonoma, una linea molto più moderna di un sindacato molto attivo appunto nel fare concessioni in nome dell'azienda, perché poi sono gli stessi dipendenti che magari hanno partecipazione azionaria nell'azienda, quindi è l'interesse di tutti che le cose vadano bene. E Stern insomma è riuscito a creare un suo sindacato con ben 6 milioni di iscritti. Il settore servizio, ricordiamoli, poi uno dei più forti. Poi abbiamo il settore dei Teamster, dei camionisti, un sindacato potentissimo che è stato dietro la lobby su Barack Obama per cercare di rivedere gli accordi col NAFTA, perché il traffico di camion che arrivava dal Messico poi in qualche modo rovinava il business, gli affari dei camionisti americani. Ecco, quindi ci sono un po' di organizzazioni separate, però il sindacalista è John Sweeney, il capo della FAL-CIO. Ecco, in questa prospettiva il sindacato come vede la nuova politica di Obama e viceversa come vede Obama questa trasformazione del sindacato? Si stanno studiando. Io adesso, quando prima ho detto il sindacato capitalista, ovviamente ho voluto usare un termine un po' provocatorio, ma ci sono rivendicazioni molto precise dei sindacalisti e dei sindacati americani nei confronti di Obama e dell'amministrazione Obama in generale. Perché? Perché intanto si sono mobilitati coi soldi, con la forza della militanza, andando porta a porta per cercare di raccogliere il voto, con direttive di voto dei loro iscritti, che comunque sono svariate milioni. Quindi direi che Obama deve essere sicuramente grato al sindacato. Cosa rivendicano in particolare, a parte cose di cui ti ho accennato, per esempio il NAFTA e i camionisti, insomma cose che probabilmente poi lasceranno il tempo che trovano, ma c'è una rivendicazione molto importante, il cosiddetto Employee Rich Act, cioè una riforma che dovrebbe consentire ai sindacati di poter istituire delle elezioni all'interno delle aziende, soprattutto le aziende del settore servizio, che agevolano l'iscrizione al sindacato. Cioè invece di avere un voto attivo si ha un voto, diciamo così, passivo, cioè vengono quasi iscritti di ufficio e quindi c'è una richiesta del sindacato di agevolare questa cosa. Obama per ora resiste, è un po' in limbo, ecco. I 100 giorni sono finiti, nei prossimi 100 giorni sapremo se questa cosa funzionerà. Un'ultima domanda molto rapida: esiste ancora lo sciopero? Esiste lo sciopero, esistono i picchetti. A New York mettono questi enormi toponi gonfiabili che così girano per indicare che in quel particolare building o ristorante o luogo ci sono dei crumiri, e quindi ci sono questi che passeggiano coi cartelli e che urlano che ci sono i crumiri, e c'è questo topo, si vede questo topo gigantesco che emerge. New York, che così sembra la città del futuro avveniristica, in realtà, e forse questo molti dei nostri ascoltatori non lo sanno, è delle città più sindacalizzate d'America. Ci sono i vecchi sindacati, quelli che risalgono agli anni 30, che hanno ancora radici, per cui in certi palazzi non si può usare un elettricista qualunque, ma occorre che ci sia l'elettricista del sindacato. Grazie Mario Platero. Grazie a voi. Allora, grazie a Mario Platero per questa intervista. Indubbiamente un sindacato un po' a due facce, quella che emerge dalla testimonianza del nostro corrispondente da New York, un sindacato che sta cambiando fortemente, cercando appunto di prendersi delle responsabilità di gestione operativa, come nel caso Fiat Chrysler, ma che cerca anche di mantenere una posizione di potere, delle rendite di posizione e magari un tesseramento più facile. Allora, Carlo Della Ringa, e questo sindacato sindacato americano, un sindacato che cambia. Oggi Giuseppe Berta sul Sole 24 Ore dice: il sindacato sigla di fatto la conclusione della storia di 70 anni. Siamo di fronte veramente a un cambiamento, e a un cambiamento che può essere una testimonianza di come deve muoversi il sindacato nell'attuale società. Carlo Della Ringa. È presto per dirlo, però certamente è un momento molto interessante. Non è stato ricordato un fatto abbastanza noto, è che il sindacalismo negli Stati Uniti è crollato, come in molti paesi anglosassoni, compresa l'Inghilterra. Il tasso di sindacalizzazione del settore privato negli Stati Uniti è il 7%, quindi per dire che è ancora una realtà, ma ormai minoritaria. È stato schiacciato in questi decenni da un lato da una politica di conservazione, di difesa di interessi corporativi che ha portato a naturalmente queste conseguenze, ma dall'altro lato anche da un tipo di sviluppo che ha messo al centro dell'attenzione fattori come la finanza e altri fattori che certamente non erano quelli che potevano valorizzare in pieno il lavoro. La crisi attuale da un certo punto di vista è paradossalmente sembra aver rilanciato un mondo in cui il sindacato può trovare la sua parte. Ricordiamo la nuova amministrazione, Obama che vuole rilanciare il welfare, e poi casi emblematici come questo delle case automobilistiche che sono veramente rappresentano un esperimento interessantissimo, perché qui non si tratta più di partecipazione azionaria dei singoli lavoratori alle imprese, su questo l'America ha sempre avuto una lunga tradizione, gli ESOP, i piani di investimento in cui si facilitava fiscalmente anche l'acquisto di azioni da parte dei singoli lavoratori. No, qui c'è una partecipazione dei lavoratori organizzata, dove il sindacato può dire la sua, e neanche nei consigli di sorveglianza, nei consigli di amministrazione. Interessante vedere questo connubio con una persona come Marchionne, che negli ultimi anni ha anche manifestato una certa propensione a valorizzare la partecipazione all'interno delle aziende. Qui si tratta di dire fin troppa grazia a Sant'Antonio, però certamente è un challenge per il quale Marchionne è il più indicato da affrontare. Ecco, indubbiamente questo accordo Fiat Chrysler e questa partecipazione del sindacato è stata consentita anche dal fatto che la particolare realtà americana dava sì che il sindacato potesse acquisire questa partecipazione azionaria attraverso la trasformazione di parte dei crediti dell'azienda verso i lavoratori, le forme assicurative, previdenziali, sanitarie che il sindacato ha accettato di trasformare in azioni. Ecco, ma al di là della tecnicalità che ovviamente è difficilmente riproducibile nella realtà italiana in cui il welfare è molto più statale che non aziendale. Professor Della Ringa, un'ipotesi di questo tipo, pur in prospettiva, potrebbe essere valida anche per l'Italia? Per passi graduali. Qui noi sappiamo tutti, è stato anche discusso in questi ultimi anni, anche in questi ultimi tempi, il paese dove l'organizzazione dei lavoratori ha un potere molto forte all'interno delle aziende è la Germania, dove c'è la cogestione. Ora è difficile, primo, fare una valutazione di carattere generale di questa istituzione all'interno di quel paese. Sappiamo che i pareri sono discordi, anche i risultati di analisi, anche scientifiche, non arrivano sempre allo stesso risultato. Secondo, esportare da un particolare contesto un tipo di esperienza di quel genere è estremamente difficile. Quindi io direi che bisogna partire anche tenendo presente quali sono i problemi dei singoli paesi. Noi in Italia abbiamo un fortissimo movimento sindacale, abbiamo una componente di questo movimento che è disponibile per una forma di partecipazione all'interno delle imprese per cercare anche di crescere gli investimenti in innovazione, nella riorganizzazione. Il nuovo contratto che è stato firmato qualche settimana fa va in quella direzione. Ecco, io comincerei da lì, prima ancora di parlare a forme di cogestione, a forme di rappresentanza dei lavoratori nei consigli di sorveglianza o nei consigli di amministrazione. Dopodiché, che ci possa essere qualche impresa in cui questo avviene, può essere anche utile, perché permette appunto di fare quella sperimentazione e di capire come possono funzionare esperimenti di questo genere anche nel nostro paese. Però un allargamento di quell'esperienza come quella della Chrysler, io penso che non sia possibile né negli Stati Uniti né nel nostro paese, però rappresentano punti di osservazione molto interessanti. Grazie professor Della Ringa. Io vorrei chiedere a questo punto a Daniele Marini, rapidamente, prima della sosta pubblicitaria, se nelle imprese magari nuove che stanno crescendo, nelle piccole e medie imprese, queste forme di partecipazione possono essere possibili. Daniele Marini. Ma condivido l'opinione di Carlo Della Ringa, qui è difficile ipotizzare delle ricette o delle modalità universali, tenendo presente poi che nelle realtà di piccola e media impresa, in realtà noi abbiamo delle forme di partecipazione implicita, per così dire, ovvero cioè tenendo presente poi che molte di queste imprese nascono da esperienze di ex lavoratori dipendenti, abbiamo in queste realtà un clima, diciamo così, appunto implicitamente partecipativo, dove cioè i pochi lavoratori che ci sono contendono a considerare l'impresa in cui sono una sorta di loro proprietà. E quindi, diciamo così, vedo difficile ipotizzare delle forme, anche da un punto di vista normativo, diffuse, che possano garantire o permettere questo. Bisogna poi calarle a seconda dei settori o dei contesti territoriali in cui le imprese sono e nascono, perché il nostro paese ha un'articolazione molto forte, pensiamo solo alle realtà distrettuali piuttosto che a quelle invece dove non ci sono distretti, anche lì culture del lavoro molto diverse. Per cui andrei, diciamo così, con molta cautela e molta attenzione. Ecco, indubbiamente però c'è in atto una trasformazione anche nella realtà italiana del lavoro, nella realtà delle imprese, anche per la trasformazione del lavoro stesso, il lavoro che non è più il lavoro, almeno in gran parte dei casi, il lavoro manuale del passato, ma è sempre più un lavoro tecnologico, un lavoro sulla conoscenza, un lavoro partecipato. Ma ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, non senza ricordare il numero verde per gli ascoltatori, l'800 24 00 24, se volete chiamare o mandare un messaggio sms al 349 238 6666. A tra poco. Ciao, sono Cristina Chiabotto. Porto sempre con me il mezzo litro di Rocchetta, acqua della salute. In auto, in palestra, a passeggio. Rocchetta mi depura ed è l'amica della mia bellezza. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Plin plin. Scusate, un attimo di attenzione per un annuncio importante. Ieri, verso le 8, ho percorso 20 km con la mia auto. Grazie. Ogni viaggio è un evento straordinario con la nuova Exeo, la prima berlina SEAT. Nuovi motori Euro 5 anche con Monrail, equipaggiamento tecnologico d'avanguardia, tua con finanziamento a tasso agevolato e 2 anni di garanzia aggiuntiva. Iniziativa valida fino al 31 maggio presso i concessionari che aderiscono, salvo approvazione SEAT Credit. Numero verde 800 100 300. Sono qui davanti a una balera, sento la febbre ma non è sabato sera. 12,54. Cerchi una farmacia? Ringa 12,54. Per i costi vai su 12,54.it. Tre parti di eccellenza nel fare, due parti di gusto di vivere, qualche goccia di spiritualità. Preparatevi a un cocktail di emozioni, preparatevi a Universo Sublime, l'evento che fa incontrare chi l'eccellenza la vive con chi l'eccellenza la crea. Se sei un protagonista dell'eccellenza italiana, non puoi mancare. Dal 7 al 10 maggio al Parco Esposizioni di Novegro a Milano. Prenota il tuo ingresso su www.universosublime.it. Universo Sublime, tua eccellenza. Buongiorno, 10 euro di gasolio. Hai visto come mi guarda? Sono 2 giorni che continua a regalarmi punti. Ci sta provando. Tesoro, veramente i punti non li regala solo a te. A maggio i punti Esso Extras valgono doppio. Cosa aspetti ad iscriverti? Extra premiati con Esso Extras. Offerta valida sull'acquisto di tutti i carburanti nelle stazioni Esso aderenti all'iniziativa. Scade il 31 maggio 2009. Regolamento su www.essoextras.com. Fax, come va? Male, Legal Mail. Molti professionisti imprese mi hanno già lasciato per te. Sicura e completa sei la migliore posta elettronica certificata. Solo tu segnali via SMS la posta in arrivo e... E molto di più. Scoprilo su legalmail.it. È un prodotto InfoCert. FBM è il leader italiano delle tegole in cotto e dal 1906 produce l'intera gamma dei laterizi. Le coperture FBM sono di qualità superiore e resistono anche in presenza di condizioni climatiche estreme. FBM, il tetto che dura per sempre. C'è crisi, c'è crisi. Eh sì, la crisi colpisce tutti, ma ci sono idee nuove per reagire. Come aprire un centro parte lesa in franchising, la rete italiana specializzata nel risarcimento danni da incidenti stradali, malasanità e infortuni sul lavoro. Con parte lesa cresci in un settore che batte la crisi e diventi un professionista del risarcimento danni. Parte lesa. Numero verde 800 14 49 72 o partelesa.it. Gli speciali di GR24. Bentornati al nostro speciale in diretta. Oggi parliamo di primo maggio, della festa del lavoro in quest'ottica particolare, una festa condizionata indubbiamente dalla crisi economica, dalla crisi globale, ma in cui ci sono stati anche, ci sono elementi molto positivi come l'accordo tra Fiat Chrysler. E ne stiamo parlando con il professor Carlo Della Ringa, professore di economia politica all'Università Cattolica, con Daniele Marini, docente di sociologia del lavoro presso l'Università di Padova, e con Francesco Delzio, autore del libro Generazione Tuareg sui giovani e il lavoro. Ma prima di tornare a parlare di come si sta trasformando la realtà italiana, lascerei la parola all'ascoltatore Alberto da Pordenone. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io non sono un economista, forse ho rimasto indietro qualche pezzo della storia recente, però quello che mi lascia un po' sorpreso è questo. Per quanto ne so io, la Chrysler dovrebbe ancora fare parte del gruppo Daimler Chrysler, quindi c'è con la Mercedes in sostanza. Ecco, se è così, se non è che mi sbaglio, le cose ormai si sono sciolte da tempo. Sì, sì, si sbaglia, curioso. Guardi, si sono sciolte da tempo, non è più non da tempo, da un paio d'anni la Daimler è uscita dalla Chrysler, adesso la proprietà della Chrysler non è più condivisa con la Daimler, quindi la Chrysler è un'industria indipendente. Ho capito. Ecco, comunque no, a questo punto rimane una domanda, diciamo così, strategica. Ecco, diciamo, come mai, per esempio, una casa così grande come la Chrysler è diventata indigesta in qualche modo alla Mercedes? D'accordo, sicuramente problemi economici, però magari forse perché tutto sommato facevano un prodotto abbastanza analogo, erano abbastanza competitors l'uno con l'altro, insomma non avevano prodotti particolarmente diversi. Mentre, e allora invece perché diventa così appetibile per la Fiat? Forse perché per la Fiat, diciamo, rappresenta quelle categorie superiori, sia un po' anche sul lusso, un pochino anche sui fuoristrade eccetera, che le mancano, e quindi va in questo modo a rinforzarsi. Niente, la domanda era questa, solo cercare di capire come mai come mai quello che non ha funzionato con Daimler può funzionare con Fiat, lei sì, si chiede. Sì, certo, ha certamente certo. Ragione. Beh, indubbiamente i tempi, c'è da dire che i tempi sono cambiati rispetto al 5-6 anni fa, quando è stato fatto l'accordo tra Daimler e Chrysler. Allora non si parlava di recessione economica, non si parlava di crisi, non si parlava di prezzi del petrolio più alti di quelli poi sono stati raggiunti negli ultimi anni, non si parlava così apertamente e fortemente di necessità di politiche ambientali. Adesso se ne parla anche positivamente sul fronte ambientale, la richiesta di nuove automobili, nuove politiche, di nuove capacità di contrastare questa crisi ambientale fa sì che la Fiat abbia una carta in più rispetto alle case, per esempio appunto americane, che su questo fronte sono abituate a produrre macchine imponenti, grandi, e soprattutto con grandi consumi e anche con grande inquinamento. È cambiato un po' il mondo e la Fiat in questo ha saputo cogliere alcuni particolari e alcune linee strategiche che adesso la fanno essere un'azienda fortemente competitiva. Competitiva anche per la sua capacità, che è stata sottolineata negli Stati Uniti, di fare una ristrutturazione. Anche la stessa Fiat era qualche anno fa una preda. Aveva fatto anche la Fiat un accordo con General Motors, non dimentichiamolo, anche questo era stato un accordo che poi si era sciolto, e anche qui appunto si era sciolto perché non si vedeva la possibilità di integrazione tra queste due imprese, si era sciolto con un vantaggio anche per la stessa casa torinese, che ha avuto i mezzi finanziari poi anche per finanziare appunto la propria ripresa e la propria ristrutturazione. Ma tornerei a parlare con i nostri ospiti, in particolare con Daniele Marini. Avevamo parlato di questa trasformazione dell'industria italiana. Daniele Marini, il ruolo del sindacato italiano in questa trasformazione? Beh, come diceva Della Ringa prima, diciamo che possiamo trovare delle componenti diverse anche all'interno del sindacato. Da un lato abbiamo chi, come diciamo il sindacato o quelle componenti che hanno un orientamento più di tipo industrialista, diciamo fermo, attestato su posizioni che vedono un'industria ancora di tipo fordista classico, da un lato, e dall'altro invece quelle culture sindacali che hanno cercato di seguire le effettive trasformazioni all'interno del mercato del lavoro e all'interno delle imprese e che quindi hanno un orientamento, diciamo così, più pragmatico, cioè più attento alle reali trasformazioni. Quello che però manca, a mio modo di vedere, complessivamente in Italia, nel nostro paese e ovviamente anche nel sindacato, è una riflessione attenta alle culture del lavoro, cioè a come i lavoratori interpretano e vivono il loro stesso lavoro. C'è uno dei maggiori, se non il più grande, sociologo del lavoro in Italia, Ari Sacornero, che ancora negli anni Ottanta aveva fatto un libro, un testo in cui analizzava appunto le trasformazioni e la perdita dell'ideologia del lavoro nel nostro paese, a cui non è seguita poi un'attenta riflessione su come è cambiato il lavoro da un lato e dall'altro le culture dello stesso lavoro. Come accennavo in precedenza, oggi da un lato noi abbiamo che le nuove tecnologie inserite nei luoghi di lavoro tendono a disarticolare la classica divisione del lavoro manuale intellettuale, e così parimenti dall'altro lato cambiano e si sono fortemente articolate le figure professionali all'interno dei luoghi di lavoro. Noi oggi abbiamo ancora in mente, diciamo così, un'immagine del lavoro alla Charlie Chaplin, ancora con i lavoratori in tuta blu, con le mani sporche, e un'immagine del lavoro che è quella tipicamente industriale fordista. Oggi, senza negare ovviamente che c'è ancora una parte del lavoro che è pesante, sporco, pensiamo alle fonderie, tanto per dire per fare un riferimento, però ormai anche questi sono diventate realtà, diciamo così, marginali nel complesso del mondo del lavoro. A noi manca completamente una riflessione e una rappresentazione di quella grande parte del lavoro che è quella, per esempio, dei servizi, del terziario, così come manca un'attenta riflessione appunto a come cambia il rapporto intellettuale manuale dentro le stesse imprese. Quando noi pensiamo che chiamiamo fabbriche imprese dove la quota di lavoratori manuali, operai, sono di gran lunga minoritarie, ecco, anche solo con l'utilizzo di questo termine, fabbrica piuttosto che industria, non descriviamo più ciò che è in realtà. Sì, indubbiamente, grazie Marini, questo lavoro sta cambiando nella sua realtà, sta cambiando, e forse dall'esterno è difficile rendersene conto. Io vorrei chiedere a Francesco Delzio, autore di Generazione Tuareg, osservatore della realtà giovanile, come i giovani vedono il lavoro, come affrontano in questa fase particolarmente difficile, soprattutto per loro, perché è difficile tenere il posto di lavoro di chi il lavoro ce l'ha. Ancora più difficile è che i giovani possano in questa fase, in questo particolare momento, entrare per la porta principale nel mercato del lavoro. Francesco Delzio. Beh, intanto dobbiamo dire che i giovani italiani non hanno il sindacato dalla loro parte. Il sindacato italiano è molto forte, ma ha una legittimazione molto ridotta da un punto di vista generazionale. L'età media degli iscritti al sindacato in Italia è di 45 anni ed è l'età media più alta del mondo avanzato, quindi è un sindacato vecchio che rappresenta interessi che da un punto di vista generazionale sono molto lontani da quelli dei giovani italiani e dal punto di vista delle tipologie di lavoro ai quali sono chiamati appunto oggi i giovani italiani. Poi però c'è un problema molto più ampio rispetto alla legittimazione dei sindacati, che è quello, come dire, in cui si dibatte oggi la generazione Tuareg, i ventenni e i trentenni di oggi. hanno delle tipologie di accesso al mondo del lavoro molto flessibili, e questo è comune a tutto il mondo avanzato, ma poi il tasso di trasformazione dei loro lavori a tempo determinato in lavori a tempo indeterminato, quindi la possibilità di accedere al vecchio, caro posto fisso, è molto bassa in Italia ed è più bassa rispetto alla media del mondo avanzato. E poi c'è un welfare che non li tutela, quindi se perdono questo posto di lavoro rischiano di rimanere senza un sussidio di disoccupazione, ed un welfare comunque passivo che quindi gli dà pochissima formazione e quindi poco aiuto a rimettersi sul mercato del lavoro con degli skills più alti. Quindi una condizione oggettivamente di grandissima difficoltà, che si può riassumere poi in un dato del quale si parla pochissimo in Italia, ma che, come dire, ha delle valenze potenzialmente rivoluzionarie. Mentre 30 anni fa il reddito di un trentenne rispetto al reddito medio di un cittadino italiano era più o meno pari, il rapporto era quasi di 1-1, oggi il reddito di un trentenne è pari soltanto all'80% del reddito medio di un italiano. Quindi un impoverimento dimostrato dai numeri, e che sommato a tutto quello che dicevo prima, un welfare che non ti tutela, un sindacato che non rappresenta i giovani italiani, ecco, pone davvero i ventenni e i trentenni italiani in un deserto nel quale tutte le certezze tradizionali si sono dissolte e non si vedono i nuovi pozzi d'acqua che possono abbeverare appunto i giovani italiani. Ecco, ma in questa prospettiva del zio, chi può rappresentare i giovani? Il sindacato non li rappresenta? Forse la politica? Beh, come dire, come sappiamo anche la politica ha delle grosse difficoltà. Qualunque giovane che entri oggi in una sezione di partito, come dire, non ha un tipo di accoglienza che possa soddisfarne la passione politica, e naturalmente anche dal punto di vista dei partiti politici i giovani italiani sono un'entità molto frammentata, magari elettoralmente poco appetibile, vanno a votare meno rispetto alle generazioni più avanzate, e quindi anche lì i giovani italiani trovano una scarsa capacità di rappresentanza. Probabilmente l'unico modo di rappresentarsi, purtroppo, è, come dire, nella loro capacità di creare qualcosa di nuovo, anche da un punto di vista professionale. Noi abbiamo comunque un dato molto positivo in Italia, che è rappresentato dal tasso di natalità imprenditoriale. C'è una capacità dei giovani italiani di inventarsi un lavoro di tutti i tipi che è davvero molto alta, nonostante le croniche difficoltà legate alla burocrazia, all'accesso al credito. Quindi direi che l'unico futuro che la generazione Tuareg può costruirsi non è un futuro su delega dei sindacati o dei partiti, ma è un futuro che può costruirsi soltanto da sola. Beh, in questo senso si può sperare che la società possa lasciare spazi. In Italia mi sembra che gli spazi ci possono essere, perché i giovani, e non solo i giovani, possono diventare imprenditori, cioè trasformare il proprio lavoro in creatività, e in questa fase forse può essere opportuno rilanciare una creatività che comunque è molto presente nella realtà italiana, che ha un grande numero di piccole imprese, che ha un grande numero di nuove imprese, tra l'altro anche molti immigrati in Italia, soprattutto quelli che sono qui da qualche anno, si stanno trasformando da lavoratori a imprenditori. Ma proviamo con i nostri ascoltatori sul tema Fiat Chrysler, mi sembra. Gianfranco da Genova, buongiorno. Buongiorno, senta, sì. Io più che parlare del problema americano, che conosco relativamente poco, vorrei intervenire perché non sono d'accordo con la codecisione che vige in Germania, e mentre ritengo che sarebbe necessario che il sindacato fosse informato di quello che succede nell'azienda, cioè vorrei evitare un caso Parmalat. In altri termini, bisogna che ci sia una rappresentanza sindacale in uno degli organi di sorveglianza o nel consiglio di sorveglianza oppure nel collegio sindacale, ma non nel consiglio di amministrazione, perché la decisione deve essere lasciata all'imprenditore, che deve poter agire il più rapidamente possibile senza altri condizionamenti. La ringrazio, quindi lei è favorevole a un controllo da parte del sindacato e non a un intervento nella gestione operativa, quindi praticamente anche nel possesso di quote azionarie. Massimo da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti, buon primo maggio. Grazie. Vorrei dire due cose. Una prima cosa, che questo l'ha fatto Marchione, si innesta sulla sua bellissima lettera dedicata all'Ubuntu, che molti di noi hanno letto, sul riconoscimento dell'altro. E poi un'altra cosa, nel momento in cui viene dato ai sindacati il possesso della parte economica dell'azienda, anche si interviene dando al sindacato, che possiede buona parte anche dell'economia di carta, fondi pensione eccetera, la necessità di controllare anche l'economia di carta. Quindi si ritorna ad una, secondo me, ad un maggior potere dell'economia reale, quella fatta di macchine, di automobili, di frigoriferi, di televisori eccetera, su quella fatta invece di solo carta, perché gli stessi lavoratori avranno tutti gli interessi a far sì che le loro aziende vadano bene anche finanziariamente, quindi anche in borsa, e quindi probabilmente sarà l'unica maniera per uscire fuori da questo tipo di impasse economico mondiale. Grazie mille, certamente indubbiamente la crescita della finanza è stato uno dei fattori che ha provocato l'attuale crisi. Lei dice con un sindacato più presente si può dare più spazio all'economia reale. Prima di sentire i nostri ospiti su questi temi, lascio la linea al traffico. Amore, sono passato in centro e ho preso la TV. Bravo tesoro, con lo schermo LCD o al plasma? No, ho comprato un'intera TV, telecamere, redazione e palinsesti. Ora conviene volere tutto e subito. BMW Serie 1 Dynamic Limited Edition può essere vostra a 23.900 euro nella versione 3 porte e a 24.700 euro nella versione 5 porte. Scoprite come su www.bmw.it. È un'offerta dei concessionari BMW aderenti all'iniziativa. Strade in diretta. Come era prevedibile, sono tanti veicoli in viaggio su strade e autostrade. In uscita da Milano sulla tangenziale ovest si resta in coda per immettersi sulla A7. La Milano-Genova in A7, le code verso la Liguria sono tra Casei Gerola e Tortona. In Lombardia, sempre in uscita da Milano, ci sono code a tratti fino a Desenzano sulla A4 in direzione del Veneto. In uscita da Venezia, sempre in A4 verso Trieste, le code sono tra la barriera di Venezia Est e San Donà di Piave. C'è molto traffico sul le riviere liguri, sulla 10 la Genova Ventimiglia, però le code tra Savona e Spotorno verso la Francia sono anche per un incidente. Le code per immettersi sulla 10 dalla 26 dei Trafori ora cominciano da Ovada. Sulla 14 Adriatica si resta a tratti in coda verso la riviera romagnola. Sono trafficatissime le principali direttrici toscane in direzione mare ed è trafficatissima l'autosole dalla Emilia a Lazio. Per chi da Firenze viaggia verso Bologna, sempre in autosole, le code tra Pian del Voglio e Rioveggio di 5 km sono per un incidente, cioè dell'olio sul piano viabile. Noi torniamo tra un'ora. Promo 24. La mancanza di trasparenza può nascondere problemi. Per questo è sempre bene avere informazioni precise sulle aziende con le quali hai a che fare. Il portale Registro Imprese consente a tutte le aziende l'accesso online ai dati ufficiali delle Camere di Commercio per non avere sorprese. Con un clic potrai accedere a informazioni complete e aggiornate su oltre 6 milioni di imprese. Avrai la possibilità di richiedere una visura, cercare un protesto, controllare marchi depositati e bilanci e potrai ottenere queste informazioni a un costo vantaggioso. E se ti registri entro il 30 giugno avrai già concluso un buon affare, 15 euro di interrogazioni gratuite. Il portale Registro Imprese lo trovi su www.registroimprese.it. Gli speciali di GR24. Bentornati, 1° maggio, stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di sindacato, di partecipazione del sindacato alle imprese, partecipazione azionaria, partecipazione nella gestione operativa. Due ascoltatori prima sottolineavano da una parte l'esigenza che il sindacato potesse entrare, ma sarebbe meglio se si limitasse a un'operazione di controllo e di sorveglianza, mentre un altro ascoltatore sottolineava come la presenza del sindacato possa portare l'azienda a privilegiare il lavoro reale, concreto, operativo, industriale rispetto alle tentazioni della finanza che tanti danni hanno fatto negli ultimi anni. Allora, Carlo Della Ringa, quale può essere la prospettiva per la presenza del sindacato all'interno delle imprese? Non c'è dubbio, come diceva l'ascoltatore, che la crisi paradossalmente può essere un'opportunità per rilanciare la questione del lavoro come fattore positivo di crescita, perché abbiamo visto come gli investimenti di breve periodo, molto rischiosi, possono dar luogo a bolle speculativi, perché tendenti a valorizzare, aumentare il valore delle imprese nel brevissimo periodo. Abbiamo visto che questo ha dei limiti enormi. Bisogna invece puntare a quegli investimenti che rafforzano l'impresa nel medio e lungo periodo, rafforzano il suo capitale, soprattutto il capitale più prezioso, che è il lavoro. Ecco, ormai queste parole d'ordine sono passate e non c'è dubbio che in queste circostanze anche il sindacato può avere un maggior ruolo da giocare. Con quale tipo di partecipazione all'interno dell'azienda? Una partecipazione ai risultati, alla produttività, ai profitti? Una partecipazione alla gestione organizzativa, nel gestire, diciamo così, l'organizzazione all'interno? Una partecipazione di tipo strategico nel delineare gli obiettivi dell'azienda? Io penso che al di là di casi specifici come Chrysler, che dettati anche dalle circostanze e dalle esigenze concrete, bisogna fare anche di necessità virtù, nel generale, soprattutto nel nostro paese, bisogna puntare a un tipo di partecipazione che valorizzi gli aspetti positivi della presenza sindacale, perché ricordiamoci che talvolta lo stesso sindacato, se avesse forte potere all'interno dell'azienda, rischierebbe lui stesso di avere una visione miope della realtà, tenderebbe a difendere i posti di lavoro esistenti, che è il suo mestiere, ma questo naturalmente pregiudicherebbe la possibilità di tutte quelle riorganizzazioni, ristrutturazioni, cambiamenti che sono richieste da un cambiamento dinamico, anche di lungo periodo, di rafforzamento dell'impresa. Ecco, proprio per evitare questo e perché ciascuno faccia il suo mestiere, è importante invece che il sindacato dia una partecipazione di coinvolgimento nei lavoratori e crei nell'ambito delle aziende quel clima favorevole all'innovazione. Molte ricerche americane hanno dimostrato che in queste forme soft di capitalismo condiviso si crea all'interno dell'ambiente dell'impresa un ambiente favorevole all'innovazione. L'innovazione non è sempre frutto di un'idea geniale, ma di creare all'interno dell'impresa un'attitudine al cambiamento in positivo. Quindi una partecipazione dei lavoratori ai risultati, accompagnata, e qui finisco, questo sì, da dei diritti di informazione. Anche questa è una cosa che è passata a livello europeo, la stessa comunità dice che i lavoratori devono essere informati, e può darsi che anche questa idea di questo rappresentante indipendente all'interno di un sistema duale possa in qualche circostanza svolgere un ruolo importante, perché in qualche misura il lavoro come capitale da salvaguardare nel lungo periodo ha bisogno di essere in qualche misura rappresentato, ma attenzione a non dare un potere eccessivo a un interesse che molto spesso è un interesse contingente, che è quella della difesa dei posti di lavoro. E noi veniamo da un periodo in cui abbiamo fatto delle riforme per dire che molto spesso è importante anche la mobilità, cioè la mobilità verso le imprese che si sviluppano e da imprese che hanno bisogno invece di ridimensionarsi. Ecco, in questa prospettiva, Daniele Marini, il sindacato italiano può fare questo passo in avanti, questo maggior coinvolgimento nelle imprese, anche se appunto partecipazione agli utili, come diceva Della Ringa, e controllo di gestione e informazione sotto questo fronte, è comunque un cambiamento di mentalità rispetto all'attuale. Daniele Marini. Direi che allora, su un piano dell'immaginario collettivo la strada da fare da parte del sindacato in realtà è ancora, in Italia è ancora abbastanza lunga. Questo però su un piano, diciamo così, dell'immagine generale che noi abbiamo o che si ha in Italia del sindacato. Poi in realtà se scendiamo, diciamo come si usa dire, nell'economia reale, cioè se scendiamo all'interno di singole imprese o singole realtà, possiamo vedere che gradi e forme di questa partecipazione in realtà si possono in qualche misura già registrare, soprattutto appunto in quelle realtà, penso adesso per esempio alla situazione di crisi che stiamo vivendo, dove imprese e sindacati stanno già ragionando, diciamo così, in questi termini, perché si è compreso e si sa e si capisce molto bene che il lavoro, il capitale umano è uno degli asset strategici delle imprese su cui intervenire. Quindi un piano è l'aspetto generale, l'immagine che noi abbiamo, e dall'altro invece la realtà in cui queste cose già in qualche misura si verificano. come al solito torniamo al problema di prima, che l'articolazione e settoriale e territoriale della nostra economia impedisce di riuscirne ad averne un quadro generale. Però esperienze appunto già ci sono e che quindi andrebbero maggiormente valorizzate. Teniamo presente poi che esiste un'area non proprio marginale della nostra economia in cui già queste forme si sperimentano in modo, per così dire, non ideologico. Penso al mondo al vasto mondo cooperativistico, dove cioè i lavoratori partecipano in buona misura alle decisioni e alle strategie delle stesse imprese. E qui non stiamo parlando di piccole o piccolissime imprese, parliamo di un mondo cooperativistico dove le imprese di grande dimensione sono assolutamente di rilievo e forse anche una maggioranza. Certo, è una realtà quella italiana ovviamente molto diversificata, sia a livello territoriale, sia a livello di strutture aziendali, sia a livello appunto di grandezza delle imprese, con la prevalenza di queste piccole e medie imprese, ma anche con forme appunto di imprese cooperative che spesso vengono dimenticate quando si parla appunto di economia e di industria in senso generale. Ecco, Francesco Delzio, rapidamente sul fronte giovanile, questo rapporto con i sindacati in prospettiva rischia di essere sempre peggio? Sì, direi di sì, anche se, come diceva Marini, in realtà l'economia reale poi riserva delle sorprese più positive rispetto alla rappresentazione scenica che noi facciamo della realtà. La partecipazione ai risultati, agli utili, alla produttività è una realtà abbastanza diffusa nelle grandi e nelle medie aziende italiane attraverso i contratti integrativi aziendali ed è una realtà che funziona e che più funzionerà e più, quando l'economia tra un anno, speriamo anche prima, ripartirà, aiuterà le aziende italiane ad avere più velocità, perché è una leva di coinvolgimento dei lavoratori molto forti. Il cambiamento culturale del contratto integrativo aziendale, che porta appunto alla partecipazione ai risultati e agli utili, è un cambiamento che non trova grandi resistenze nei lavoratori giovani, che, come dire, sono già molto più preparati a questo tipo di compartecipazione, lo dico in senso non tecnico, alle sorti dell'azienda. Ci sono fortissime resistenze culturali ancora in parti del sindacato, come ad esempio la FIOM, che invece dal punto di vista della rappresentanza sono legati ad altri schemi culturali, ad altre generazioni. Quindi io credo che andando avanti negli anni, in realtà con la diffusione, come dire, di questa cultura tra i lavoratori più giovani, potremo avere anche dei sindacati sempre più partecipativi. Ecco, siamo quasi in conclusione, rapidamente Fabrizio D'Alecco. Buongiorno. Io volevo intervenire sull'argomento dell'accordo Fiat-Chrysler. È un accordo che da piccolo azionista Fiat ho studiato in maniera meticolosa e ho sentito qualche ascoltatore, ma anche qualche commento vostro prima, che diceva: speriamo che questo accordo funzioni, mentre con l'accordo Chrysler-Daimler non ha avuto degli esiti positivi. Io sono convintissimo invece che questo accordo per Fiat è estremamente positivo, estremamente strategico, perché non dimentichiamo che il gruppo Fiat ultimamente sta trovando redditività e mercato quasi esclusivamente nel settore delle piccole auto, ed in particolare Panda e 500 sono i settori ad alta redditività di auto prodotte in Polonia, quindi non in Italia. Gli stabilimenti italiani della Fiat, se la Fiat non esce da questo angolo, rischiano di essere estremamente ridimensionati, e il sindacato è ben consapevole di questa situazione, non penso di dire cose nuove. Questo accordo dà delle prospettive molto importanti alla Fiat, dà la possibilità di avere il mercato degli Stati Uniti, che non poteva avere da sé, poiché non era in grado di fare una rete commerciale negli Stati Uniti, mentre con Chrysler a costo zero ha acquisito 500 concessionari nel nord degli Stati Uniti e nel Canada. Ecco, io la ringrazio di queste informazioni. Indubbiamente è importante, mi sembra, chiudere questa trasmissione con questa nota positiva, con questa nota di fiducia. L'accordo Fiat Chrysler è sicuramente una svolta, qualcosa che dimostra che l'industria italiana ha anche la possibilità di dare un esempio nel mondo di potenzialità di crescita e di saper affrontare in termini nuovi e competitivi le nuove esigenze del mercato e dei mercati. Ecco, si chiude qui questo speciale. Abbiamo affrontato il tema del sindacato, del lavoro alla luce della crisi economica, alla luce di questo accordo Fiat Chrysler. Non sarà l'unico speciale di oggi, ricordo alle 13.15 con Anna Marino, le donne e il lavoro, alle 17 con Simone Spezia faremo il punto di questa giornata che vede i sindacati tra poco nei comizi all'Aquila e nel grande concerto nel pomeriggio e in serata a Roma. Una giornata di festa, lo hanno dimostrato anche in fondo il traffico sulle strade, una giornata che ci deve fare però riflettere sempre sui temi del lavoro, sui temi della persona, che sono i temi fondamentali anche per fare una società migliore, è quello che tutti ci auguriamo, ringraziando per questa trasmissione Carmelo Laricella in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione. Grazie e arrivederci. Amiche, ecco a voi il più elegante frigorifero in alluminio satinato. La più eccellente lavatrice per capi raffinati. Ma è proprio il meglio! Sì, il meglio lo trovi da Expert, alla grande festa degli elettrodomestici. Come la nuovissima lavatrice Indesit Prime, 8 kg di carico, 1400 giri. A soli 599 euro. E subito in regalo Space Compactor, il salvaspazio che compatta indumenti e coperte fino al 75%. Vedi il regolamento nei punti vendita aderenti. Expert. Gli esperti siamo noi. Psst, lo Space Compactor lo voglio anch'io. Sono Galileo Galilei.